Storiacce di Raffaella Calandra. Loro non vogliono scavare, io dico, capito? Perché succederebbe che il popolo andrebbe veramente in rivoluzione. Perché questi siti sono sotto delle case che sono state costruite. Eh sì, alcuni siti, e altri stanno ancora in altri posti, che altri comuni che stanno vicino Casale. Ma voglio che ce ne stanno ancora. I rifiuti ancora nascosti, sottoterra da qualche parte, gli screening medici ancora fermi in qualche passaggio burocratico e la rabbia degli abitanti ogni giorno più alta. Ad un anno di distanza nulla sembra essere davvero cambiato qui nella terra dei fuochi. Un anno dopo la legge, una legge ad hoc voluta nel febbraio 2014, un anno dopo lo stanziamento di 50 milioni proprio per loro. Ma qui, denunciano gli abitanti, noi continuiamo a morire e per di più con la sensazione di essere presi in giro. Perché un grido così doloroso? E soprattutto è davvero così? È ferma l'acqua davanti ai piccoli laghetti nei dintorni di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sono spuntati negli ultimi anni nei terreni di questa terra un tempo tra le più feconde. Sono spuntati nel momento in cui c'è stata la necessità di coprire le discariche di rifiuti illeciti e tossici interrate qua sotto. Molte sono state trovate, ma a detta del principale pentito molte altre ci sono ancora, nascoste da qualche parte. E qui allora sono tornate le storiacce e da qui, dai laghetti malati della terra dei fuochi, parte questa nuova puntata. Se volete scriverci, la pagina Facebook è Storiacce o su Twitter mi trovate all'account Raff Calandra. Non solo non sono partiti, ma c'è un grande bluff che io dovrò denunziare in tutte le sedi. Dove sono interrati tutti questi rifiuti di cui parlava a Storiacce già tempo fa Carmine Schiavone, il principale pentito del clan dei Casalesi, il primo ad aver svelato il business della monnezza? Ci promise che ne avremmo riparlato, ma ormai lui è morto. E molti da queste parti, in queste martoriate terre, vivono col timore di essere letteralmente ancora seduti su voragini tossiche, senza neanche la prospettiva di un passo in avanti verso la prevenzione. Nonostante la legge approvata un anno fa per la Terra dei Fuochi che introduceva lo screening, nonostante gli stanziamenti milionari, e questo è quello che oggi gonfia di rabbia la voce di chi, come Ciro di Francia, guida l'Osservatorio per la Salute e l'Ambiente di Pozzuoli e quindi è referente un po' di tutte le persone da queste parti. La legge numero 6 del 6 febbraio del 2014 prevede che la Regione Campania, d'intesa con l'Istituto Superiore della Sanità, deve individuare degli screening per verificare se a seguito del disastro ambientale che si è verificato in provincia di Napoli e di Caserta ci possano essere degli screening specifici per le popolazioni, escludendo i comuni capoluogo. Quindi questo è il primo grande neo della legge, perché non è possibile che la città di Napoli, che ha avuto tutti i problemi delicati riguardante pianura, la questione del cratere Senga, l'Eternit e tutta la problematica dell'Idassider, ecco, i cittadini sono esclusi dalla legge dagli screening. E invece questi screening, secondo la legge, sono comunque previsti per quelle che sono le zone cuore, diciamo, della terra dei fuochi. Non solo non sono partiti, ma c'è un grande bluff che io dovrò denunziare in tutte le sedi. Si dice che sono partiti gli screening. Quali sono gli screening? Pap test, mammografia e sangue occulto nelle feci. Questi esami sono previsti dai LEA, i livelli essenziali di assistenza a livello nazionale per tutte le popolazioni d'Italia. Cioè, quindi non sono, diciamo, delle analisi specifiche su un territorio particolare, ma sono quegli esami che sono appunto previsti dal sistema sanitario nazionale in tutta Italia. Quali sono invece gli esami specifici? Non a caso si fa riferimento all'Istituto Superiore della Sanità. Dobbiamo incominciare a stabilire se nell'organismo, se nel sangue di quei soggetti ci sono accumulati dei metalli pesanti. Allora far passare con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il biennio 2014-2015 per il screening della terra dei fuochi, quelli che sono previsti per tutte le popolazioni italiane, questo è un grande bluff. Quindi la legge stabilisce questo screening, non indica quali esami fare, ma rimanda la decisione all'Istituto Superiore della Sanità, che sul punto si è pronunciato oppure no? Noi vogliamo sapere dal nostro vostro governatore della Campania. Quali sono le indicazioni che sono arrivate dall'Istituto Superiore della Sanità? Si è a lungo parlato anche del registro, il famoso registro per i tumori. Altra questione complicata questa. L'ASL dice sì, noi stiamo individuando quale percorso mettere su per avviare il registro dei tumori. Abbiamo contatto con i medici di base, dobbiamo fare delle schede, sì, campa cavallo. Cioè, mentre questi a distanza di un anno stanziano fondi, approfondiscono, fanno incontro, fanno comunicati stampa, però continua a morire la gente a qualsiasi età. Mia figlia è morta a 43 anni, io le posso garantire, dal momento che qui le mammografie si debbono fare da 45 anni in poi, che quando accompagniamo mia figlia al Pascale non c'erano persone superiori a 50 anni che facevano la chemio. Qui si sono abbassati maledettamente i livelli di età. Io credo che proprio se ne stanno fregando di noi. I fatti purtroppo lei li ha vissuti molto da vicino, molto drammaticamente, perché oltre a sua figlia le ha perso anche una moglie e la sorella. Sì, tutte e tre di cancro. E come quella di Ciro, di Francia, sono tantissime le famiglie sterminate dal cancro, che colpisce persone sempre più giovani. Colpa dei veleni, nascosti in campi dove si coltivavano anche verdure e frutta, colpa di liquami arrivati pure alle falde acquifere, c'è un collegamento effettivo tra le malattie di oggi e gli anni passati di sversamenti illeciti voluti dalla camorra, avallati da politici e imprenditori e coperti dal silenzio dei cittadini? È questo ciò che lo screening medico, introdotto dalla legge di un anno fa, dovrebbe ricostruire e documentare. Ma un anno dopo, appunto, non sono ancora partite, denuncia la popolazione, anche se dalla regione Campania dicono che invece non è così e citano mammografia e pap test. Di sicuro queste sono delusioni che poi aprono ancora di più lo spazio ai clan, osserva Antonello Ardituro, a lungo magistrato dell'antimafia di Napoli, ora al Consiglio Superiore della Magistratura. Sono delusioni che ritengo, come dire, non siano più ammissibili, nel senso che bisogna rendersi conto che fette di popolazione che hanno subito lo scempio, che è stato lo scempio dei rifiuti, e come conseguenza molte di queste famiglie lamentano la perdita di propri cari, anche di giovanissimi, anche di bambini. Non c'è tanto da stare a misurare l'intervento dello Stato col bilancino, bisogna dare rassicurazioni e soprattutto dimostrare con i fatti che si vuole investire una tendenza. Questo è però un punto centrale. La delusione spinge la gente più facilmente da queste parti nelle braccia della malavita. È vero che tanti, per tanti anni, hanno fatto la corsa per venderci i loro terreni per l'immondizia, ha raccontato Schiavone. È vero che per anni, in silenzio, la gente qui ha accettato. Ma è anche vero che ora che si è resa conto dei veleni che ha mangiato e respirato, del male che ha fatto a se stessa prima di tutto, pretende risposte ed è capace pure di combattere. Così ora non esclude, dice Ciro di Francia a nome dell'Osservatorio per la Salute, anche un ricorso per omissione d'atti d'ufficio nei confronti di chi avrebbe dovuto far applicare la legge di un anno fa con gli screening medici. Noi la mobilitazione la facciamo quotidianamente, coinvolgendo i ragazzi con le scuole sulla necessità della prevenzione. Noi siamo stati tra quelli che abbiamo acquistato tramite una sottoscrizione il bioscanner per dimostrare che è possibile prevenire il cancro. Sicuramente, diciamo, i tempi della burocrazia, della legge, delle leggi, degli iter parlamentari sono purtroppo ben diversi rispetto a quelli della velocità con cui avanzano le malattie e soprattutto con cui avanzano nello specifico i tumori. Ma non ne escludiamo anche un coinvolgimento della magistratura per tutto quello che le sto dicendo, perché qui ci può essere anche un'omissione d'atto d'ufficio su tutti gli atti che vanno fatti. Campi, coltivazioni e poi paesoni ad altissima densità umana, paesi dove le case sono una vicino all'altra e strade come l'asse Nola-Villaliterno tagliano tutta l'aria e collegano i vari centri. Sta anche qui uno dei drammi della Terra dei Fuochi. Sta nella difficoltà o forse nell'impossibilità effettiva di verificare ogni sito dove sarebbero stati nascosti i rifiuti. Come si fa a scavare sotto un'autostrada lunga chilometri, osserva un magistrato. E allora noi camminiamo per chilometri in queste strade a scorrimento veloce, segnate qua e là da cumuli di immondizia, e si scorgono nell'aria i pennacchi dei fuochi e ci si rende conto che questa è ancora terra di camorra, nonostante gli arresti, nonostante le leggi e le proteste. Storiacce. Io l'immondizia non la volevo in nessuna maniera. L'immondizia tossica, che l'atomica è tossica. E quando io ho capito che non c'era più niente da fare, mi sono pentito. Perché io sapevo, come gliel'ho detto, che questi facevano morire generazioni intere. Ma questi stanno in coppia di posto tra la munnezza, ste case. Qui ci sta qualche parte di questa roba radioattiva. Ma come cazzo l'hanno fatto costruire questa gente qui? Provenienti c'hanno pure un pozzo, perché lì acquedotto non ce n'è, non ci arriva. Dal sud della Latina a Borgomondello ci a volare, tutta la zona costiera, tutta la strada Domiziana, Castel Volturno, Mondragone, tutti quei laghetti che noi scavavamo. E poi siamo andati a Casale, fino a tutto verso De Verulo, Marcianisa, più ci stavano cassette di fanghi nucleari. Le centrali nucleari a Germania, Austria, Svizzera venivano riciclate attraverso una società di Milano che aveva una grossa discarica a Milano che passava attraverso l'Appidui, e c'era anche un personaggio abbastanza noto. Andare in discarica significava che ogni fusto di quella veniva 2 milioni per distruggerlo, mentre dandolo ai clan costava 200.000 lire, sotto gli occhi di tutti. I politici stavano tutti a mensile, per dire, noi qua calcestruzzo caricavamo la sabbia del mare, lì fuori c'era la finanza, i carabinieri pigliavano 10.000 lire a cani, autotreno, per passare normali. Questo fu il passato, neanche troppo remoto, raccontato da Carmine Schiavone, il primo pentito dei casalesi. Anni di affari dei clan con la monnezza di mezza Italia e non solo, da interrare nelle campagne dell'agro aversano. Il presente è invece la fila di uomini e donne nella sala d'attesa di un medico per sottoporsi ai controlli. L'hanno comprato loro, questo bioscanner, i residenti della zona, per fare prevenzione, visto che un anno dopo l'approvazione della legge sulla Terra dei Fuochi, gli screening, denunciano, non sono ancora partiti. La regione Campania assicura il contrario, ma la verità, tanto per cominciare, è che c'è molta incertezza, c'è assenza di un registro dei tumori e c'è assenza di informazioni sicure su quali siano gli esami effettivi e necessari per prevenire e controllare questo genere di malattia. Ed è tutto questo quello che fa infuriare Ciro Di Francia con l'Osservatorio per la Salute a nome di tutta la gente. Il bioscanner è una sonda elettromagnetica scoperta da un fisico italiano della Marina Militare, Claro Bruno Vedruccio, che senza svestirsi, in pochi minuti, legge i tessuti. Rileva se ci sono nei nostri tessuti, su organi solidi però, se ci sono infiammazioni oppure cellule tumorali. Questo bioscanner è stato prodotto dalla Finmeccanica. Dopodiché il Ministero della Salute ha riconosciuto l'omologazione per prostata e vescica. Nel mentre si facevano tutte le altre procedure per riconoscere, per omologare questo strumento diagnostico per gli altri organi come tiroide, mammella, stomaco duodeno, prostata e vescica, eccetera, la Finmeccanica sospende la produzione. Cioè, voi l'avete comprato anche però? Anche qui come osservatorio, troviamo un medico volontario a cui affidiamo questo bioscanner. Siamo partiti a febbraio dello scorso anno. Questa dottoressa ci ha dato una disponibilità per 2 volte alla settimana. Fatto sta che noi a questo punto abbiamo avviato un confronto con l'ASL. Stiamo parlando di giugno 2014. Nel frattempo quindi voi lo utilizzate, riuscite a sottoporvi, sì, a delle visite con questo strumento oppure no? Sì. Ma solamente per prostata e vescica. Il Veronesi ha riconosciuto la validità di questo strumento all'IEO di Milano, dove è stata fatta la sperimentazione. Però non è possibile, ecco, fare esami per gli altri organi perché non c'è l'omologazione. Un anno dalla legge, un anno dagli incontri e dalle sollecitazioni riferite al bioscan, non abbiamo risposte. Ma insomma, allora che dobbiamo fare qui? Una cosa va detta in questa storiaccia terribile della morte di Terra dei Fuochi. Una cosa va detta in modo chiaro, che oltre alle responsabilità dei clan, pari se non maggiori, sono state quelle dello Stato a vario titolo, come scrive in modo esplicito un magistrato, Antonello Ardituro, a lungo PM della DDA partenopea, ora al CSM e autore del saggio Lo Stato non ha vinto. Nella vicenda dei rifiuti, la Camorra si è inserita in un contesto politico-amministrativo ed imprenditoriale molto particolare, molto favorevole a questo tipo di affari trasversali, e lo Stato ha dato questa opportunità perché non ha saputo organizzare in maniera adeguata un ciclo dei rifiuti. La storia dei rifiuti e della cosiddetta Terra dei Fuochi troppo spesso viene fatta passare per una storia solo di camorra, e invece è innanzitutto una storia di mala e cattiva amministrazione. Molto spesso è stata una storia di clientelismo politico. Si intrecciano vicende di società come la Eco 4, famosa, citata più volte nell'indagine che ha coinvolto l'ex sottosegretario Nicola Cosentino. Situazioni come quelle della Eco 4 sono situazioni nelle quali un contenitore ha visto confluire interessi di varia natura. Appunto, c'erano gli interessi politici di chi magari aveva necessità di fare voti e clientela, e gli interessi dell'imprenditoria, gli interessi della camorra. Lei scrive che una pagina ancora oscura della grande crisi dei rifiuti ruota intorno alla figura dell'ultimo padrino del clan dei Casalesi, Michele Zagaria il Monaco. Quando intervistai Carmine Schiavone, che è stato il primo e il principale collaboratore di giustizia del clan dei Casalesi, quello che ha parlato soprattutto proprio del business dei rifiuti, lui mi disse che appunto la persona che avrebbe potuto svelare anche quello che lui non conosceva era proprio Zagaria. Ci sono imprenditori strettamente collegati a Michele Zagaria che hanno svolto affari importanti. Del resto l'ala imprenditoriale vicina a Zagaria è stata da sempre interessata ai fenomeni del movimento terra, dei trasporti, e quindi questi sono fenomeni strettamente connessi al mondo dei rifiuti e agli affari che vi sono legati. C'è un processo che per esempio è in corso in cui è sotto accusa un imprenditore che è stato subappaltatore per la costruzione della discarica di Chiaiano sulla base di un appalto della sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio, perché doveva risolvere i problemi dei rifiuti di Napoli. E tutti ricordiamo però soprattutto gli scontri e la battaglia intorno alla discarica di Chiaiano che ci fu all'epoca. Di che imprenditori parliamo? Gli imprenditori dei trasporti, del movimento terra, imprenditori edili dediti alla costruzione, imprenditori capaci di offrire servizi legati per esempio alla gestione del pescolato, imprenditori impegnati nella costruzione delle piazzole dove sono state sistemate le ecoballe, sono lì ancora presenti a Giuliano, sul territorio, a Giuliano, ma anche a Villa Viterno, insomma in tutto il triangolo della morte. Parliamo di imprenditori locali o anche provenienti da altre regioni d'Italia? Locali. Quindi dal cuore appunto del feudo dei Casalesi, perché invece quello che sappiamo è che negli anni il traffico dei rifiuti è anche stato proveniente anche da imprese di ogni genere, anche provenienti dal nord Italia e non solo. Un aspetto che mi aveva raccontato Schiavone è anche quello del piombo proveniente dalla ex Germania dell'Est. A cavallo degli anni 90, la fine degli anni 80, inizio anni 90, imprenditori del nord hanno preferito la strada offerta loro dalla camorra dell'interramento illegale nella provincia di Napoli e di Caserta piuttosto che lo smaltimento legale, perché costava molto molto di meno, era più semplice, non tracciava il tipo di attività che si svolgeva. Si è smesso a un certo punto di cercare, però dagli atti giudiziari ci sono comunque anche segnalazioni di altre possibili interramenti. Ci sono queste segnalazioni, sono collaboratori di giustizia molto recenti che hanno reso dichiarazioni su interramenti che sono stati operati anche direttamente da loro, e quindi il problema è che l'attività di verifica, di riscontro, di ricerca dei siti è molto complicata e ci sarebbe bisogno magari di maggiori mezzi. Molto spesso si è costruito su quei siti. E purtroppo è accaduto anche questo, alcune dichiarazioni fanno riferimento per esempio al riempimento di cave, l'utilizzazione di questi rifiuti frammisti ad altri materiali per la costruzione anche di importanti arterie come la Nola Villa Viterno. Il trono vuoto della camorra, voi lo chiamate così in chiusura del vostro libro. Tutti i boss, tutti i capi storici sono detenuti, alcuni addirittura collaborano con la giustizia come Antonio Giovine. Per noi questa è un'occasione irripetibile perché lo Stato si riprenda il suo territorio, e sicuramente la camorra è ancora forte, anche i casalesi lo sono, soprattutto alcune famiglie, però questa è un'occasione probabilmente storica perché per una serie di coincidenze appunto lo Stato ha ottenuto grandi successi nella repressione, ma se lo Stato non investe su questi territori, anche nella prevenzione, ma soprattutto nella offerta di un'alternativa economica e sociale, è chiaro che questo trono vuoto sarà nuovamente occupato dalla camorra e non dallo Stato. Di rifiuti tossici e di tumori e del rischio di nuove terre dei fuochi si parla ora anche in alcune aree della Sicilia e pure in Calabria. Ma col problema dell'ambiente e dell'immondizia si confrontarono già anche gli antichi greci. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Ieranò, professore dell'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia. Mitiche storiacce. Il primo ambientalista fu forse Plinio il Vecchio. Il grande scienziato e naturalista romano, morto nell'eruzione del Vesuvio, ai suoi tempi protestava per l'inquinamento dei fiumi e sottolineava anche come il disboscamento potesse creare dissesti idrogeologici, come diremmo noi oggi. Anche Platone, in realtà, ancora prima, puntava il dito contro la deforestazione del territorio di Atene. Tanti, troppi alberi tagliati per ricavare materiale da costruzione, e tutti i romani sapevano quanto fosse pestilenziale l'aria dell'urbe, tra le esalazioni dei camini e la polvere sollevata dai carri, mentre nel Tevere galleggiavano rifiuti e liquami, nonostante l'efficiente sistema di fogne. Il filosofo Seneca, poi, puntava il dito contro la speculazione edilizia che devastava le coste. Troppe ville di ricchi, diceva, e troppo vicino al mare. Chissà che avrebbe detto Plinio il Vecchio se fosse vissuto ai nostri tempi. Forse avrebbe invocato l'aiuto del grande Ercole. Tra le famose 12 fatiche a cui l'eroe dovette sottoporsi combattendo draghi e animali selvaggi, ce ne fu anche una di tipo, per così dire, ecologico. Ercole, infatti, dovette mettersi al servizio di un re che si chiamava Augia, che possedeva immense mandrie di pecore e di buoi. Lo sterco delle bestie appestava l'intera regione, proprio intorno alla sacra città di Olimpia. Ebbene, a Eracle fu ordinato di pulire le stalle del re da cima a fondo. L'eroe si immerse in quel lavoro poco onorevole ed eroico e riuscì a ripulire la regione dai liquami. Ma forse persino Ercole faticherebbe oggi a bonificare certe zone del nostro paese. Grazie dunque a Giorgio Gerano. In chiusura la segnalazione arriva stavolta da Bruno Rainieri, ascoltatore milanese, che ci sottopone la questione dell'edificazione delle mansarde e delle sopraelevazioni di ambienti poi diventati appartamenti da vendere. Lavori che avvengono col placet degli uffici pubblici, è bene dirlo, quindi illeciti, ma a volte contro il parere dei condomini, denuncia il nostro ascoltatore. Di sicuro non ovunque la sensibilità rispetto a questo tema è uguale da una parte all'altra del paese. Se avete anche voi storie da sottoporci, segnalazioni o vicende di cui volete parlare, scriveteci una mail oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è @RafCalandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it, dove ci trovate anche il podcast. Ciao a tutti, a presto!